sole, sono mega sole. Perché io senza di te mi lascio cadere, mi lascio cadere nei giorni del 2000 che verranno, in tutte queste cose che accadranno. Perché io senza di te sono nera sole, sono nera sole. Sole, sole, sole.